La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla figura di Ezio Tarantelli, professore di economia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma, assassinato dalle Brigate Rosse 25 anni fa, il 27 marzo 1985. Ospite ai nostri microfoni Maurizio Franzini, direttore del Dipartimento di Economia Pubblica alla Facoltà di Economia di Roma. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. In particolare, seguiremo la storia di un inviato dell'International News Service al fronte italiano nel 1943. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. È il 27 marzo del 1985. Sono trascorsi 25 anni da quella tragica mattina. Ezio Tarantelli è un bersaglio facile per le Brigate Rosse. Un professore di economia, uno studioso, senza protezione, senza scorta, come accadrà per Enzo D'Antona e Marco Biagi, la cui unica arma erano le loro idee e le loro lezioni. 20 proiettili in pieno viso alla luce del sole, un omicidio assurdo che andò ad allungare la lunga scia di sangue di quegli anni tragici di piombo. Tarantelli sta finendo la sua lezione di economia politica, cancella dalla lavagna dell'aula numero 3 le ultime cose che ha scritto, saluta gli studenti, gira un angolo, va verso la sua macchina. Sono passate da poco le 11:30 del mattino. Tarantelli raggiunge la macchina e apre la portiera. Due uomini sono lì ad attenderlo. Uno è vestito elegantemente di grigio, una grossa borsa di pelle scura. L'altro indossa un maglione a collo alto. Si avvicinano rapidamente, lo chiamano. «Professore, scusi?» Tarantelli è seduto, abbassa il finestrino, guarda la sua sinistra, vede la canna di un piccolo mitra, poi non vede più nulla. Muore così, a poco meno di 44 anni, vittima della violenza assurda e cieca che ha insanguinato il paese in quegli anni. La figura di uomo, di studioso, di appassionato difensore della revisione della scala mobile, che lui stesso aveva contribuito a riformare e che per questo venne considerato dai brigatisti un nemico, è stata rievocata lo scorso 26-27 marzo in un convegno internazionale organizzato presso la Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, dal titolo Occupazione, Relazioni Industriali e Capitale Umano, l'attualità del pensiero di Ezio Tarantelli. Allievo e poi collega di Franco Modigliani al Massachusetts Institute of Technology, Ezio Tarantelli ha diretto, una volta tornato in Italia, l'Istituto di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze. Professore di economia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma, consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia e presidente del Centro Studi Economici della CISL, è stato il maggior teorico della predeterminazione degli scatti di scala mobile. La mattina in cui venne ucciso dalle Brigate Rosse, si accingeva a scrivere il manifesto politico ed economico che chiedeva di votare no al referendum sulla scala mobile indetto dal PC e avversato dal governo allora guidato da Bettino Craxi. Referendum abrogativo che il successivo 9-10 giugno del 1985 venne respinto con il 53,3% dei voti contro il 45,7% dei favorevoli all'abolizione. Il nome del professor Tarantelli faceva parte di un elenco trovato in un appartamento di via Fermentano. Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, rievoca così la figura di Ezio Tarantelli. L'esperienza di Tarantelli ci può dare un contributo davvero forte per trovare in noi le energie migliori, ma anche per aprire una riflessione forte nella società italiana. Quello era un periodo in cui le persone si impegnavano e si impegnavano per tutti, come Ezio Tarantelli. Lui scelse di lavorare allora per la CISL solamente perché riconobbe in quella proposta, in quel momento, un'alternativa valida molti fatti statici che non permettevano all'economia di progredire e ai lavoratori di essere protetti. E questo è il ricordo della moglie di Ezio Tarantelli, Ebe Carol Tarantelli. C'era un sindacalista magnifico che si chiamava, purtroppo è morto, Eraldo Crea, che quando Ezio ha detto io vorrei fare il modello econometrico dal punto di vista del lavoro e Eraldo ha detto a Ezio: il sindacato è un po' come un calabrone, si sa che vola, ma non si sa perché. Allora, noi abbiamo un po' paura di questo. E poi Eraldo ha detto: facciamolo. E mi pare che questo desiderio di buttarsi oltre, di immaginare altro, di pensare che ci sono alternative, di pensare che c'è futuro, no, a lui è stato negato. Ma io penso che questo impulso è importante, che lo ricordiamo in un modo che è un invito a viverlo. Abbiamo in linea il professor Maurizio Franzini, che è direttore del Dipartimento di Economia Pubblica alla Facoltà di Economia di Roma. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Abbiamo scelto di rievocare la figura di Ezio Tarantelli prendendo spunto da questo importante convegno che si è tenuto sabato scorso proprio alla Facoltà di Economia della Sapienza di Roma. Professore, ci parli intanto di questa mattinata, che è stata molto intensa, anche a tratti commovente, molto importante per ricordare la figura di un grande studioso come Tarantelli. Certo, in realtà le mattinate sono state due, perché il convegno è durato un giorno intero più la mattinata del sabato, il giorno intero del venerdì e poi il sabato mattina. E la mattinata di venerdì abbiamo potuto assistere a questo lungo documentario realizzato sostanzialmente dal figlio di Ezio Tarantelli, da Luca Tarantelli, che aveva una chiave di lettura tutta incentrata sulla riscoperta del padre, o sulla scoperta del padre da parte del figlio, che al momento della tragica uccisione aveva 13 anni, e che quindi, come dire, aveva questa esigenza di confrontarsi con la figura del padre, la memoria di quello che il padre era stato, e l'ha fatto attraverso questo documentario davvero molto emozionante. Nella versione che abbiamo visto integrale il venerdì dura quasi un'ora, ma è un'ora di emozioni veramente molto intense, soprattutto per chi ha conosciuto Ezio Tarantelli. E questo documentario è stato poi riprodotto in una versione più breve di circa un quarto d'ora la mattina dopo, alla presenza anche del Presidente della Repubblica, e anche in questo caso l'effetto emotivo è stato molto forte. Questo ha creato un clima che normalmente non si respira nei convegni, anche quando, soprattutto quando ci sono parti scientifiche o accademiche in cui magari si confrontano idee, però questa proiezione di questo documentario così intensamente commemorativo e di vibrazioni emotive così forte ha prodotto una situazione abbastanza anomala, nella quale tutto sommato si è anche lavorato abbastanza meglio. Professor Franzini, a 25 anni dalla tragica uccisione di Tarantelli, qual è secondo lei il contributo da studioso di Tarantelli che anche oggi è vivo e attuale? Beh, ce n'è più di uno in realtà. Lui, per i suoi tempi in particolare, fu una figura abbastanza fuori del comune, sia per il tipo di specializzazione che scelse di darsi. A quell'epoca gli econometrici erano una categoria molto poco numerosa, e quindi il fatto che lui avesse scelto di specializzarsi in questo ambito di analisi applicata già lo qualificava come una persona abbastanza fuori del normale. Ma al di là di questo, l'aspetto caratteristico di Tarantelli è stata questo suo desiderio, questo suo entusiasmo, questa sua convinzione che bisognasse in qualche modo portare la conoscenza nell'ambito delle decisioni politiche e dal lato del sindacato, perché quella era la sua collocazione più naturale, dal lato delle organizzazioni dei lavoratori alle quali lui voleva dare un contributo di conoscenza, ma non nella direzione della contrapposizione, questo era l'aspetto distintivo, ma nella direzione della ricerca di soluzioni che potessero essere condivise. La sua direi fissazione era lo scambio politico, che in qualche modo voleva inserire in ogni tipo di analisi che lui faceva. Lo scambio politico significava i grandi attori consapevoli del fatto che in assenza di coordinamento e di cooperazione si fanno danni reciproci, si nuocciono reciprocamente, si rendono disponibili per accordi in cui ognuno cede quella parte di comportamento che finisce per risultare di danno per gli altri, e ognuno alla fine dovrebbe stare meglio. Lo scambio politico era la chiave con cui lui voleva aprire la porta alla soluzione di molti problemi. All'epoca il problema principale era quello dell'inflazione, a cui era associato quello della disoccupazione. Oggi probabilmente si occuperebbe di altre cose, sono problemi molto grossi sul versante della produttività, e quindi immagino che se lui fosse vivo di questo si occuperebbe. Però c'è un aspetto un po' paradossale nella vicenda di Tarantelli, questa sua enorme fiducia della capacità dell'argomento razionale di convincere gli attori a cooperare, perché questo nel vantaggio di tutti, poi in qualche modo si è trasformato non soltanto nella tragedia che conosciamo, ma anche in un limitato apprezzamento del suo messaggio, direi, perché la tendenza a interpretare quello che lui diceva in termini di posizioni, per conto di chi parlava, con quale schieramento lui si sentiva più simpatico. Questo credo che fosse sia un modo sbagliato di guardare a Tarantelli. Il suo era davvero un obiettivo di realizzare delle condizioni per cui tutti potessero trarre un vantaggio dal reciproco dialogo. Ed è un obiettivo, professore, che unifica in qualche modo la figura di Tarantelli anche a quella di Enzo D'Antona e Marco Biagi, altri due studiosi che sono stati uccisi anche appunto in nome di questo, di questa ricerca del dialogo e di un moderno riformismo. Certamente, non a caso entrambi e tutti costoro avevano a che fare con il complesso tema delle relazioni industriali, delle relazioni di lavoro e sindacali, dove è così difficile trovare, riaffermare l'idea del vantaggio reciproco, perché l'aspetto conflittuale è quello che domina. Il coraggio di Tarantelli è stato quello, e anche naturalmente di D'Antona e di Biagi, è stato quello di credere fortemente nella capacità di imporre razionalmente le buone ragioni della cooperazione contro quelle del conflitto. Grazie professore. Di nuovo, arrivederci. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Ascoltiamo adesso il documentario che Radio 24 ha realizzato in collaborazione con History Channel, dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Gli eventi sono narrati da un particolare punto di vista, quello di Richard Tregaskis, giornalista partito dagli Stati Uniti a seguito delle truppe americane durante lo sbarco in Sicilia del 1943. La nostra storia comincia da un celebre discorso del presidente americano Franklin Delano Roosevelt. Mai prima d'ora siamo stati chiamati a un'impresa così prodigiosa. L'America entra in guerra. Mai prima d'ora abbiamo dovuto fare così tanto in così poco tempo. Gli alleati attaccano l'esercito di Hitler in Nord Africa e in Sicilia, costringendolo al ritiro. Se riusciremo a fermarlo, l'Europa sarà libera. Nel Pacifico, il giornalista Richard Tregaskis decide di seguire i Marines durante l'attacco ai giapponesi. Ma io sono qui per assistere all'azione e farò di tutto per andare con la prima ondata. Il suo crudo resoconto della battaglia di Guadalcanal porta la realtà della guerra nelle case di milioni di americani. Passo sopra i corpi dei Marines e dei giapponesi, che sono come avvinghiati, come caduti in un corpo a corpo mortale. Ho la sensazione orribile di essere insignificante, una minuscola particella nel gigantesco ingranaggio della guerra. Signore dei liberi, fa che tutti noi crediamo nel diritto dell'uomo al pane e alla pace, alla giustizia e alla rettitudine, alla libertà e alla sicurezza, all'opportunità per tutti di fare del proprio meglio, non solo nella propria terra, ma in tutto il mondo. questa guerra ha raggiunto una nuova fase critica. Siamo entrati nel vivo della battaglia contro i nostri nemici. Stiamo impegnando nel conflitto mondiale tutto ciò che abbiamo. I nostri giovani e le enormi risorse della nostra nazione. Per costruire aerei, armi e munizioni. Nell'autunno del 43, circa due anni dopo l'attacco a Pearl Harbor, la macchina da guerra americana lavora ai massimi regimi. Attivi 24 ore al giorno, i cantieri navali americani producono navi da guerra a ritmi incredibili. La flotta americana nel Pacifico è la più imponente tra quelle di tutti i paesi in guerra. Il popolo americano ha compiuto un miracolo. L'inviato dell'International News Service, Richard Tregaskis, è in Sicilia. Solo un anno fa ha portato a termine la sua prima missione da cronista di guerra nella battaglia di Guadalcanal. Da allora vuole solo tornare al fronte. Arriva in Sicilia una settimana dopo lo straordinario sbarco delle forze alleate sulla costa meridionale dell'isola. Ma prima che raggiunga il fronte, gli alleati hanno già fatto indietreggiare gli italiani e i tedeschi che sono scappati attraversando lo stretto di Messina. Al momento, i tedeschi sono fermi sulle zone montuose e aspettano il nemico. Stamattina la radio ha annunciato che gli alleati sono sbarcati sulle coste italiane del sud. Potrebbe essere la missione più pericolosa della guerra e voglio farne parte anch'io. Per me, il richiamo del fronte è come l'oppio. C'è qualcosa di eccitante nell'essere in mezzo a una battaglia, vivo, a un passo dalla morte. Il solo pensiero del pericolo stimola la fantasia. Il 3 settembre del 1943, l'ottava armata inglese attraversa lo stretto di Messina e sbarca in Calabria. Cinque giorni dopo, l'Italia si arrende ufficialmente. Ma quando il 9 settembre la quinta armata americana giunge nel Golfo di Salerno per creare una testa di ponte nell'Italia centrale, trova una difesa tedesca più agguerrita del previsto. Hitler non ha intenzione di cedere l'Italia senza combattere. Le armate tedesche assumono posizioni difensive strategiche sulle zone montuose dell'Italia centrale. Mentre le truppe americane avanzano verso Napoli, Tregaskis le segue da vicino. Sono arrivato in un paesino. Tutto è stato distrutto dal fuoco dell'artiglieria e dalle squadre di demolizione tedesche. Hanno fatto saltare gli edifici nella speranza di rallentare gli alleati. Gli abitanti recuperano i corpi dalle macerie. Un signore mi dice in un inglese stentato che i nazisti sono degli animali. Tutti animali. Per la prima volta dopo tanto tempo riesco ad assistere a un'azione di guerra in una zona cruciale. Dopo varie settimane al fronte, l'inviato di guerra Richard Tregaskis partecipa alla missione sul fiume Volturno, a nord-est di Napoli. Paracadutisti e morteisti alleati cercano di stanare gli osservatori di artiglieria tedeschi nascosti nelle grotte. I nostri colpi scatenano l'inferno. Un maggiore si volta verso di me e dice: È uno spasso finché le diamo e non le prendiamo. Sento un sibilo, sempre più forte. È tutto sotto sopra. Strano. Non ho più l'elmetto in testa. Gli uomini corrono accucciati. Cerco di urlare, ma la mia gola emette strani suoni. So che cosa voglio dire, ma non ci riesco. Tutto sembra irreale. Come in un film con la colonna sonora ovattata. Un medico si stende accanto a me. Lo guardo mentre mi inietta della morfina. Poi più nulla. Cerco di dettare una storia su come ci si sente ad essere feriti, ma lo sforzo di concentrazione è enorme e dopo 4 tentativi abbandono l'idea. Un mese dopo essere stato ferito dal fuoco tedesco, Richard Tregaskis si trova in un ospedale di evacuazione vicino Napoli. Schegge e frammenti ossei gli sono penetrati nel cervello, danneggiando i centri del linguaggio e le abilità cognitive e motorie. Come posso essere uno scrittore con la capacità espressiva di un idiota? Un giornalista che non parla, scrive o legge? Non sarà facile guarire. Dovrò essere molto paziente. Non è il mio forte. La mia condizione è come questa guerra. Serviranno tempo, determinazione e perseveranza per restituire a questo mondo mutilato una parvenza d'ordine. Presidente Roosevelt. Ho il sospetto che quando questa guerra sarà finita, non avremo alcuna voglia di festeggiare. Non avremo la disposizione mentale per esultare. Credo che quello che sentiremo sarà solo la forte volontà che tutto questo non accada mai più. Il radiodocumentario che avete appena ascoltato è stato realizzato da Radio 24 in collaborazione con History Channel ed è tratto dalla serie Archivi ritrovati, una raccolta di testimonianze e filmati d'epoca, molti dei quali inediti, che ci restituiscono le esperienze vissute nella quotidianità della guerra. Il documentario andrà in onda in versione integrale lunedì 12 aprile alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.